PP. Lavoro domani un nuovo incontro, la Camusso, il governo faccia proposte, la FIOM annuncia lo sciopero generale per il 9 marzo. Assunzioni sospette al comune di Gubbio, arrestato il vicepresidente del Consiglio regionale Umbro. Olimpiadi 2020, alle 14 l'incontro a Palazzo Chigi, non si farà a Roma, scrive il sito del Corriere. Buona giornata dalla redazione da Anna Rita D'Ambrosio. Due ultime ore in primo piano. La prima riguarda, lo avete sentito, le Olimpiadi del 2020. Non si faranno a Roma, scrive il sito del Corriere della Sera. Dopo un'attenta valutazione dei costi e dei benefici legati all'operazione nel suo complesso, il Premier Monti avrebbe deciso che non esistono le condizioni e dovrebbe comunicarlo alle 14 al comitato promotore. Quando è stato fissato questo incontro, sul quale ieri c'era stato un piccolo giallo, Alemanno diceva che l'incontro era stato fissato per oggi, Palazzo Chigi diceva che non c'era alcun incontro, in serata il Campidoglio aveva invece confermato l'incontro. Alle 14 avremo la certezza. Intanto va segnalato che il sito del Corriere già parla di un no a Roma, alle Olimpiadi di Roma nel 2020. L'altra notizia in primo piano arriva da Milano e riguarda la vicenda che si è verificata ieri, il vigile urbano che ha sparato uccidendo un cileno in fuga. Il vigile urbano è indagato per omicidio volontario, è un flash di agenzia che appunto comunica questa notizia importante, omicidio volontario per il vigile urbano che ha ucciso un immigrato cileno ieri al termine di una fuga. Adesso parliamo della reazione dei mercati dopo la decisione di Moody's di abbassare il rating di Italia, Spagna e Portogallo e di mettere sotto osservazione il giudizio su Francia, Inghilterra ed Austria. Oggi i riflettori erano puntati anche sull'asta dei BTP e ovviamente sempre sullo spread. Ci aggiorna in diretta la nostra Valentina Furlanetto. Valentina. Sì, buongiorno a te gli ascoltatori, ancora buongiorno. È stata una mattinata incerta quella dei mercati europei, indecisi sulla reazione da prendere appunto alla decisione di Moody's di abbassare il rating per alcuni debiti sovrani, ma in realtà le borse sembrano aver scontato positivamente questa notizia. Parigi positiva, più 0,27%, Francoforte più 0,39%, Londra più 0,13%, bene anche Lisbona e Madrid quest'oggi, e anche Piazza Affari, dove il FTSE All Share guadagna lo 0,76%, il FTSE MIB lo 0,91%. Dicevamo, in Italia il quadro si è rafforzato dal punto di vista borsistico dopo i risultati confortanti di un'asta di titoli di Stato. A dispetto dell'ultimo colpo ricevuto da dall'agenzia di rating, l'Italia ha piazzato BTP su varie scadenze per quasi 6 miliardi di euro totali. C'è da segnalare il forte calo del BTP a 3 anni, il rendimento è sceso al 3,41% con un calo di 1,41 punti rispetto al precedente 4,83%. Intanto lo spread fra BTP decennale e Bund si è attestato a 361 punti percentuali dopo aver toccato in mattinata 378 punti percentuali. Per ora è tutto. Grazie Valentina. Intanto dall'ufficio di statistica ellenico arriva una notizia che riguarda la Grecia. L'economia della Grecia ha segnato una contrazione, pensate, del 7% nel quarto trimestre del 2011 rispetto allo stesso periodo del 2010. Ma intanto, dopo le decisioni di Moody's di abbassare il rating di Italia, Spagna e Portogallo e di mettere in osservazione altri paesi, il commento del nostro direttore Fabio Tamburini. Ormai da mesi va in onda un siparietto decisamente logoro. Appena l'Europa dà segnali significativi di ripresa, arriva puntuale la stangata di una delle agenzie di rating. In questo, Standard & Poor's, Moody's e Fitch, le società monopoliste del rating, si passano sapientemente la palla. Domenica scorsa il Parlamento greco ha approvato i provvedimenti necessari per evitare il fallimento del paese, la crisi drammatica dell'Europa. Immediatamente dopo è entrata in scena Moody's, che ha annunciato nella notte il taglio dei rating a un discreto numero di paesi europei, tra cui l'Italia. Il gioco è scoperto. Tutti hanno capito che è in corso una grande operazione al ribasso sui titoli europei e che le agenzie di rating, che hanno come azionisti importanti investitori internazionali, giocano di sponda. Peccato che così si cerca di fare profitti enormi sulla pelle dei popoli, e questo non va bene. Parliamo di lavoro adesso, domani riprendono le trattative con il governo, stasera il prevertice tra Confindustria e sindacati. Ci aggiorna in diretta Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Il governo accelera sulla riforma del mercato del lavoro. Domani mattina le parti sociali sono state convocate per le 9.45 a Palazzo Chigi. È il terzo incontro che servirà a fare il punto sui quattro temi che costituiscono la riforma: contratti, formazione, apprendistato, ammortizzatori sociali e flessibilità in entrata e in uscita. E intanto sindacati e imprese continuano a lavorare per tentare di arrivare ad un contributo unitario con cui presentarsi al confronto con l'esecutivo. L'appuntamento questo pomeriggio nella sede della Foresteria degli Industriali, prima alle 17 tra le associazioni datoriali, poi alle 18.30 con i sindacati. Un obiettivo da perseguire per evitare che il governo vada avanti da solo, sottolinea il segretario della CGIL Camusso, ma sentiamo la sua voce. La riforma bisogna farla insieme al governo, quindi le parti sociali possono dare dei contributi unitari, ma il tema vero è se domani si esce dalla logica degli annunci e si pongono invece alla discussione le cose che ci sembrano davvero importanti. Uno, quali politiche della crescita accompagnano la riforma al mercato del lavoro. Secondo, come si interviene sulla precarietà e per degli ammortizzatori universali, perché questi sono i temi veri, e su questo finora abbiamo sentito dei titoli ma non delle proposte che permettano al confronto di entrare davvero nel merito. E sul tavolo ovviamente la spinosa questione dell'articolo 18, la CGIL ribadisce il suo no a modifiche tranne che sui tempi delle sentenze. Di poco fa la notizia che il leader della FIOM, Maurizio Landini, ha proposto lo sciopero generale dei metalmeccanici per il 9 marzo con manifestazione a Roma contro qualsiasi ipotesi di modifica, una proposta che deve essere approvata dal comitato centrale della FIOM convocato d'urgenza. Intanto Bonanni invece si dice fiducioso, ci sono ampi margini per arrivare ad un accordo con il governo, ottimista anche il leader della UIL Angeletti, e poco fa il viceministro welfare Martone ha ribadito che il governo crede, spera e sta lavorando per un accordo con le parti sociali. E da Roma è tutto. Grazie Alessandra. La Commissione europea ha presentato l'azione del team antidisoccupazione che è in partenza per l'Italia. La disoccupazione giovanile in Italia, scrive la Commissione, è causata da molti fattori, tra cui la segmentazione del mercato del lavoro ed un sistema squilibrato di sostegno alla disoccupazione che ha creato diseguaglianze tra le generazioni. Nuovo stop al condono edilizio in Campania. Le commissioni affari costituzionali e bilancio del Senato hanno respinto una proposta di modifica del PDL che puntava a bloccare le ruspe per gli edifici costruiti abusivamente nella regione. La votazione si è conclusa con 21 sì e 21 no, il che equivale ad una bocciatura. A favore, secondo quanto riferiscono diversi senatori, avrebbe votato anche l'ex tesoriere della Margherita, espulso dal PD di recente, Luigi Lusi. Intanto il mondo politico è scosso da un nuovo arresto in manette. È finito il vicepresidente del Consiglio regionale dell'Umbria, Orfeo Goracci. Elisabetta Fiorito in diretta. Sì, proprio così Anna Rita, un caso che avrà ripercussioni in politica, soprattutto a sinistra. Associazione a delinquere finalizzata all'abuso di ufficio e altri reati, questi capi di imputazione contestati ad Orfeo Goracci, vicepresidente del Consiglio regionale dell'Umbria, arrestato su ordinanza della Procura di Perugia. Ex sindaco di Gubbio, esponente di Rifondazione Comunista, era stato già raggiunto qualche mese fa da un'informazione di garanzia nella quale la Procura di Perugia ipotizzava il reato di concussione e abuso di ufficio. Coinvolta con le stesse accuse anche l'ex vice sindaco di Gubbio, Maria Cristina Ercoli, e anche lei è stata arrestata stamane. Al centro delle inchieste alcune assunzioni sospette che sarebbero avvenute proprio all'interno del comune di Gubbio quando Goracci era il sindaco. A seguito delle accuse Goracci si era già autosospeso da Rifondazione Comunista, i vertici del partito ne avevano spiccato le dimissioni da vicepresidente del Consiglio regionale, incarico che invece aveva continuato a mantenere ancora fino ad oggi. Complessivamente sono state eseguite 9 ordinanze di custodia cautelare, 5 in carcere e 4 ai domiciliari. Per il momento qui da Roma è tutto, per studio. Grazie Elisabetta. E noi da Roma ci trasferiamo a Torino il giorno dopo la storica sentenza dell'Eternit. Ci colleghiamo con Filomena Greco. Filomena, che aria si respira nella regione coinvolta dalla vicenda Eternit? Sì, il giorno dopo la sentenza Eternit ci si rimbocca un po' le maniche, questa è la sensazione che si respira in città e nella regione. Dopo una condanna storica come quella di ieri, a 16 anni, lo ricordiamo ancora una volta, ai vertici della Eternit per i reati di disastro ambientale, di omissione volontaria e di cautela, il rischio davvero è che la grande attenzione riservata ai morti, agli ammalati di patologie correlate all'amianto possa a questo punto calare. La risposta del territorio quindi è quella di darsi da fare per garantire a questa battaglia battaglia ancora più forte di quella che ha ottenuto ieri con la sentenza. Oggi a Casale Monferrato, per esempio, si sta svolgendo una tavola rotonda con i principali protagonisti stranieri della battaglia contro l'amianto a favore della messa al bando di questa fibra in tutto il mondo. Stati Uniti, Brasile, Francia, Svizzera sono i paesi in prima linea, da dove si guarda davvero alla sentenza italiana come un passaggio chiave che può dare forza a questa campagna in tutto il mondo. Giovedì poi ci sarà sempre a Casale un'assemblea generale dove si faranno le valutazioni più approfondite sulla sentenza del Tribunale di Torino. Quindi il calendario degli eventi è davvero serrato, non c'è tempo da perdere. Il primo a dirlo è stato anche ieri il Ministro della Salute Balduzzi, ed è lo spirito con cui si vive il giorno dopo a Casale nelle terre martoriate dell'amianto, anche perché quella dell'amianto è davvero un'emergenza in corso, questo non bisognerebbe mai dimenticarlo. Ci sono 1300 ammalati di mesotelioma, una patologia gravissima ogni anno in Italia, 58 di questi ammalati sono nel comune di Casale, quindi l'allerta è molto alta. Bisogna quindi accelerare sulle bonifiche, bisogna puntare sulla ricerca, questa è la grande scommessa per una malattia che ad oggi lascia poche speranze. A fine mese quindi questa sentenza costituisce un inizio di una battaglia che ovviamente prosegue. Noi ringraziamo Filomena Greco in collegamento con noi da Torino. Le 13:16 nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato delle reazioni nelle borse, sulle borse, sulle piazze finanziarie dopo le decisioni di Moody's. Piazza Affari è positiva, tassi in calo e domanda in rialzo per l'asta dei BTP. Abbiamo parlato anche di lavoro, domani ci sarà un nuovo incontro al Ministero. La Camusso intanto precisa il governo faccia proposte, mentre la FIOM ha dichiarato uno sciopero generale e lo ha annunciato per il 9 di marzo. Abbiamo parlato anche del nuovo scandalo che coinvolge la politica, assunzioni sospette al comune di Gubbio, arrestato il vicepresidente del Consiglio regionale umbro. Tra pochissimo torneremo sulle Olimpiadi 2020, ore decisive per la candidatura di Roma, alle 14 un incontro, ma secondo il sito del Corriere della Sera le Olimpiadi a Roma non si faranno. Ancora una buona giornata da Narita D'Ambrosi e dalla redazione. Tra pochissimo approfondiremo il tema Olimpiadi, ma adesso dobbiamo chiudere l'ampia pagina dedicata alla sentenza Eternit il giorno dopo. Abbiamo sentito gli aggiornamenti da Torino. Il grande protagonista di questa sentenza storica, e non solo per l'Italia, è il PM Raffaele Guariniello, che caparbiamente ha visto trionfare la sua tesi, un suo profilo. 70 anni, piemontese di nascita ma con discendenze salernitane da parte di padre, dopo la laurea in giurisprudenza Raffaele Guariniello ha continuato gli studi con Giovanni Conso, conseguendo la libera docenza in procedura penale all'Università di Torino. Magistrato della Cassazione, dal 92 ha svolto le funzioni di procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Torino. Il suo nome è legato ad alcune tra le inchieste più eclatanti nei settori del lavoro, della salute e dell'ambiente. Da quella sull'Eternit, proprio di ieri la sentenza, a quelle sul doping nel mondo dello sport, a quella sulle caraffe filtranti, dalla strage nell'acciaieria della ThyssenKrupp di Torino alle cozze tossiche, dalle mozzarelle blu alle magliette dimagranti. Molte di queste inchieste sono contraddistinte, come si può notare, da un'attenzione ai diritti dei consumatori. I ritmi di lavoro di Guariniello sono quelli di un vero staccanovista. Ama stare in ufficio fino a notte fonda, anche nei fine settimana, ma questo, per sua stessa ammissione, non è un sacrificio, bensì un divertimento. Dice di non andare in vacanza da 30 anni, da quando aveva i figli piccoli, e ammette di studiare ancora. Ogni due settimane, dice, va a Roma in Cassazione, dove si legge e si copia le sentenze depositate. Almeno 45.000 l'anno, per sapere come interpretare le norme, per aggiornarsi di continuo. Inutile dire che è un tenace assertore dell'assoluta indipendenza dei giudici e dei pubblici ministeri. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora temo lo smantellamento del nostro pool, ha denunciato oggi proprio Guariniello, lo ha intervistato Katia Caramelli. Penso che anche i sogni impossibili bisogna cercare di realizzarli, e grazie alla collaborazione dei miei sostituti e anche grazie alla collaborazione di tutte queste istituzioni pubbliche che ci hanno aiutato, siamo riusciti a realizzare questo sogno. Lei però adesso rischia di vedere smantellato proprio il suo pool. Appunto, sono elementi che mi lasciano davvero perplesso. Sono mesi che noi stiamo sottolineando questo problema, che a me sembra che chiunque abbia un po' di ragionevolezza comprenda la necessità di una specializzazione in una materia così complessa,

verso un giovane cileno in fuga, uccidendolo. Il vigile inizialmente era stato indagato per omicidio con eccesso colposo in legittima difesa. Invece oggi questo reato è stato commutato in omicidio volontario. L'indagine è per omicidio volontario. Perché? Perché il cileno ucciso non aveva con sé alcuna arma da fuoco. Il vigile, secondo quello poi che è stato ricostruito proprio ieri, subito dopo il fatto, avrebbe agito difendendosi da un altro dei sudamericani che erano in fuga, che aveva invece estratto una pistola. Sulla, insomma, il cileno si è ritrovato in mezzo, in pratica, pur non avendo con sé una pistola, quando l'agente di polizia locale ha sparato verso chi invece gli aveva puntato l'arma. Quindi tecnicamente è indagato per omicidio volontario, ma ovviamente l'indagine è ancora all'inizio. La lotta all'evasione fiscale adesso, il nostro appuntamento quotidiano. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Almeno 250 miliardi di euro l'anno è il tesoretto frutto dell'evasione fiscale nascosta nei paradisi a un passo da casa. Questi soldi in tempo di crisi servono, per questo la Commissione europea sta spingendo per migliorare un accordo di cooperazione in vigore dal 2004 con 5 paesi chiave: Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Andorra e San Marino. Ma proprio due stati europei, il Lussemburgo e l'Austria, guarda caso anch'essi paradisi fiscali, hanno puntato i piedi e dicono di no all'intesa. 2 contro 25. Al tempo stesso, sempre Austria e Lussemburgo stanno bloccando anche il rafforzamento della direttiva sul risparmio, con il quale il segreto bancario, a loro tanto caro, andrebbe a farsi benedire. La posta in gioco è molto alta. Basti ricordare, per esempio, che in Lussemburgo il segreto bancario è alla base della prosperità di oltre 150 banche e circa 3.000 fondi SICAV, dà lavoro a 70.000 dipendenti e alimenta un regime previdenziale piuttosto generoso. Chissà che ne dice Jean-Claude Juncker, capo dell'Eurogruppo, ma anche presidente del Lussemburgo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo in chiusura, parliamo di musica perché stasera inizia Sanremo, Sanremo con il quale non riusciamo in questo momento a collegarci perché è in corso la conferenza stampa. No, mi dicono dalla regia che in questo momento la nostra inviata a Sanremo, Marta Cagnola, è in collegamento con noi. Marta, finalmente si parte, ha detto Morandi, finalmente si parte. Finalmente si parte, Morandi ha detto che è più sereno dell'anno scorso, ma di lavoro da fare ce n'è molto, infatti dopo nemmeno mezz'ora di conferenza questa volta è scappato subito alle prove, conferenza che si era aperta con un omaggio a Carlo Sartori, figura storica della RAI, scomparso questa notte, ma nel giorno del debutto del Festival di Sanremo 2012 il caso è quello di Ivana Mrazova, la giovanissima modella ceca che però ha un problema fisico, quindi per colpa di una cervicalgia acuta, questa ragazza sorella pare sia veramente molto molto male e rischia di mancare la grande occasione, quindi c'è grande animazione perché bisognerà probabilmente cambiare la scaletta e Rocco Papaleo si è detto pronto, insomma, a tirare fuori tutto il suo sex appeal. Altra grande incognita, quella di Adriano Celentano. Cosa farà? Non si sa. Quando lo farà? Probabilmente intorno alle 22. L'intervento potrebbe durare anche molto, fino alle 23 o addirittura fino alle 23:15. Per il resto, mistero fino a stasera. Grazie, grazie alla nostra Marta Cagnola da Sanremo. È tutto per questa edizione curata e condotta da Anna Rita D'Ambrosio. Grazie regia a Roberto Scaltritti. Vi lasciamo in compagnia di Italia in Controluce. Il GR torna alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.